Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Lev Tolstoi. Françoise, racconto da Montpassant. Il 3 marzo del 1882, da Le Havre, salpò alla volta dei mari della Cina il Tre Alberi Vergine dei Venti. Scaricò il suo carico in Cina, ne imbarcò uno nuovo, lo trasportò a Buenos Aires e di lì trasportò le merci in Brasile. Le traversate, le avarie, le riparazioni, le bonacce di alcuni mesi, i venti che avevano sospinto la nave fuori rotta, le avventure di mare e gli infortuni la trattennero tanto da farla navigare per 4 anni per mari stranieri e da farla attraccare soltanto l'8 maggio del 1886 al porto di Marsiglia con un carico di bidoni di conserve americane. Quando la nave aveva lasciato Le Havre, a bordo aveva il capitano, il secondo ufficiale e 14 marinai. Nel corso del viaggio un marinaio era morto, 4 erano scomparsi a seguito di varie vicissitudini e solo 9 avevano fatto ritorno in Francia. Al posto dei marinai mancanti sulla nave erano stati assunti 2 americani, un negro e uno svedese, che avevano trovato in una bettola a Singapore. Sulla nave raccolsero le vele e assicurarono all'albero i cordami a croce. S'accostò il rimorchiatore e, sbuffando, la trascinò in linea con le altre navi. Il mare era tranquillo, a riva le onde si increspavano appena. La nave s'allineò laddove, lungo la banchina, stavano fianco a fianco navi di tutti i paesi del mondo, grandi e piccole, di tutte le dimensioni, forme e attrezzature. La Vergine dei Venti stava tra un brigantino italiano e una goletta inglese che si erano fatte da parte per lasciar posto alla nuova compagna. Non appena il capitano si fu sbarazzato dei funzionari della dogana e del porto, concesse una notte di libera uscita a terra alla metà dei marinai. Era una calda notte estiva. Marsiglia era tutta illuminata. Le sue vie odoravano di cibo, da ogni parte si levavano voci, fragore di ruote e allegre grida. I marinai della nave Vergine dei Venti per 4 mesi non avevano messo piede sulla terraferma e adesso, scendendo timidamente a coppie, se ne andavano per la città come gente straniera, non avvezza al luogo. Si guardavano attorno, annusavano le strade, le più vicine al molo, come alla ricerca di qualcosa. Per 4 mesi non avevano visto donne e li tormentava la bramosia. Davanti a tutti andava Celestin Duclos, un ragazzo ben messo dall'aria sveglia. Era sempre alla testa dei compagni quando scendevano a terra, sapeva trovare i posti buoni, sapeva anche sbrigarsela quando era il caso e non si lasciava invischiare nelle risse che di tanto in tanto capitano tra marinai quando scendono a terra, ma se qualcuno attaccava lite, allora non piantava in asso i compagni e sapeva difendersi. A lungo i marinai vagarono per le strade buie, che come fuffi scendevano tutte verso il mare e dalle quali giungeva l'odore greve di scantinati e vecchi depositi. Finalmente Celestin svoltò in un vicolo stretto, nel quale, sopra le porte, ardevano lanterne tonde. I marinai, lanciando battute e canticchiando, lo seguirono. Sui vetri opachi e colorati delle lanterne erano scritte delle enormi cifre. Sotto ai bassi soffitti degli ingressi, su sedie di vimini, sedevano delle donne in grembiule. Alla vista dei marinai saltavano in piedi e, correndo nel centro della strada, sbarravano loro il passo e ognuna cercava di attirarli nel suo covo. Talvolta, nel profondo andito, si spalancava una porta. Si mostrava allora una fanciulla seminuda, con indosso rozze calze di cotone, un gonnellino corto e un corpetto di velluto nero con galloni dorati. «Ehi, belli! Venite dentro!» chiamava ancora da lontano, e alle volte correva fuori ella stessa. s'afferrava a qualcuno dei marinai e lo trascinava con tutte le sue forze verso la porta. Lo artigliava come un ragno quando trascina una mosca più forte di lui. Il giovanotto, in preda alla libidine, si opponeva debolmente e gli altri si fermavano a vedere quel che sarebbe successo. Lo gridava: «Non qui, non entrare, più avanti!» E il giovanotto, udite queste parole, di forza si strappava dalla fanciulla e i marinai continuavano ad avanzare, seguiti dalle bestemmie della fanciulla indispettita. Il rumore richiamava lungo il vicolo altre donne che si gettavano su di loro e con voci arrocchite vantavano la loro mercanzia. E così procedettero sempre più avanti. Di tanto in tanto venivano loro incontro dei soldati che facevano risuonare gli speroni, oppure dei borghesi solitari o dei commessi di negozio che si trascinavano verso un luogo che conoscevano bene. In altri vicoli risplendevano gli stessi lampioni, ma i marinai continuarono ad andare avanti, camminando nel liquame che stillava da sotto quelle case piene di corpi di donne. Ma ecco che Duclos si fermò accanto a una casa dall'aspetto migliore delle altre e vi condusse i suoi ragazzi. I marinai sedevano nella grande sala della taverna. Ognuno s'era scelto un'amica dalla quale non si sarebbe separato per tutta la sera. Tale era l'uso della taverna. Tre tavoli erano stati accostati e i marinai, per prima cosa, avevano bevuto assieme alle ragazze, poi s'erano alzati e in loro compagnia erano saliti al piano di sopra. A lungo e con gran fragore avevano rimbombato le grosse scarpe di quelle 20 gambe su per i gradini di legno e finché non ebbero fatto eruzione ciascuna nella stretta porta d'una camera da letto. Dalle camere da letto scendevano nuovamente da basso a bere qualcosa, poi di nuovo risalivano di sopra. La gozzoviglia li portava alla rovina. L'intero guadagno di 6 mesi se ne andò in fumo in 4 ore di baldoria. Alle 11 erano già tutti ubriachi e con gli occhi iniettati di sangue gridavano frasi sconnesse e non sapevano quello che dicevano. Ognuno aveva una ragazza sulle ginocchia. Chi cantava, chi gridava, chi pestava col pugno sul tavolo, chi si versava il vino direttamente in gola. Celestin Duclos sedeva in mezzo ai compagni. Sulle ginocchia aveva una ragazza grassa, dalle guance rosse. Non beveva meno degli altri, ma non era ancora completamente ubriaco. Nella testa gli vagabondavano certi pensieri. S'era come commosso e cercava qualcosa di cui parlare con la sua amica. Ma i pensieri si inseguivano l'un l'altro nella sua mente ed egli non riusciva in alcun modo ad afferrarli, ricordarli e tradurli in parole. Si mise a ridere e disse: «Allora, dunque, è da tanto che sei qui?» 6 mesi, rispose la ragazza. Lui fece un gesto d'assenso col capo, come se approvasse la cosa. «E allora, ti trovi bene?» Le rimase sopra pensiero. «Mi ci sono abituata», disse. «Bisogna pur vivere in qualche modo. È sempre meglio che fare la serva o la lavandaia». Lui annuì come se l'approvasse anche per questo. «Ma non sei di queste parti, vero?» Lei scosse il capo a significare che non era di quelle parti. «Vieni da lontano?» Lei annuì. «E da dove vieni?» Lei rimase sopra pensiero, come se stesse ricordando. «Sono di Perpignan», proferì. «Bene, bene», disse lui, e tacque. «E tu, invece, sei marinaio?» domandò a sua volta la ragazza. «Sì, siamo marinai». «E siete stati lontano?» «Certo, non dietro l'angolo. Abbiamo visto un po' di tutto». «Avete forse fatto il giro del mondo?» «Ma mica una volta sola, l'abbiamo fatto quasi 2 volte!» Lei esitò un attimo, come se stesse cercando di ricordare qualcosa. «Ne avrà incontrate tante navi, vero?» disse lei. «Come no?» «Non vi è capitato di incrociare la Vergine dei Venti? C'è una nave con questo nome». Si stupì che la donna avesse nominato proprio la sua nave e gli venne voglia di scherzare un po'. come no? La settimana scorsa l'abbiamo incrociata. Dici davvero? Domandò lei e impallidì. Davvero? Non menti? Per Dio, giurò lui. E non hai mica visto là sopra Célestin Duclos? Domandò lei. Célestin Duclos? Ripeté lui e si stupì e persino si spaventò. Come faceva a conoscere il suo nome? Forse che lo conosci? Le domandò. Si vedeva bene che anche lei si era spaventata. No, io no, ma c'è una donna qui che lo conosce. Che donna? Una di questa casa? No, una che sta qua vicino. Dove qua vicino? Poco lontano da qui. E chi è questa donna? Ma così, una donna, una come me. E perché hai bisogno di lui? Perché non lo so, può darsi che sia una sua compaesana. Si fissavano entrambi con occhi scrutatori. Mi piacerebbe vedere questa donna, disse lui. E perché? Hai da dirle qualcosa? Sì, che... Che cosa? Che ho visto Célestin Duclos. E tu l'hai visto davvero, Célestin Duclos? È vivo? Sta bene? Sta bene. E allora? Lei tacque, raccogliendosi di nuovo nei suoi pensieri, e poi disse piano. E dove stava andando la Vergine dei Venti? Dove? A Marsiglia. Davvero? Gridò lei. Davvero? E tu conosci Duclos? Ma te l'ho detto che lo conosco. Lei restò sopra pensiero. Bene, bene. È un bene, disse lei piano piano. Ma che ti serve questo Duclos? Se lo vedi, digli... No, non importa. Che cosa devo dirgli? Ma no, niente. Lui la guardava e si inquietava sempre di più. Ma cos'è? Lo conosci? Domandò. No, non lo conosco. Allora cosa ti serve? Lei, senza rispondere, al banco dove sedeva la padrona, prese un limone, lo tagliò, ne spremette il succo in un bicchiere, poi vi versò dell'acqua dentro e lo porse a Célestin. Su, bevi, disse, e sedette come prima sulle ginocchia di lui. E questo a che serve? Domandò lui, pigliando il bicchiere dalle mani di lei. Perché ti passi la sbronza, poi ti dirò. Bevi. Lui bevve e s'asciugò le labbra con la manica. Su, parla. Ti ascolto. Tu non dirgli che mi hai vista, non dirgli da chi hai sentito quello che adesso ti dirò, va bene? Va bene, non glielo dirò. Giura, giuro. Su Dio? Su Dio. E allora digli che suo padre è morto, che la madre è morta e che pure il fratello suo è morto. È stata la febbre. In un solo mese sono morti tutti e tre. Duclos sentì che tutto il sangue gli era affluito al cuore. Per qualche minuto restò seduto in silenzio, senza sapere cosa dire. Poi proferì: «E tu lo sai di sicuro?» «Di sicuro. E chi te l'ha detto?» Lei gli mise le mani sulle spalle e lo guardò dritto negli occhi. «Giura che non glielo andrai a dire?» «Ma sì, giuro, su Dio!» «Io sono sua sorella, Françoise!» gridò lui. Lei lo guardò fisso e piano piano mosse le labbra, quasi senza lasciar uscire le parole. «Ma sei tu, Célestin?» Restarono impietriti, fissandosi negli occhi. E attorno a loro gli altri gridavano con voci avvinazzate. Il rumore dei bicchieri, i colpi delle mani sui tavoli e dei tacchi sul pavimento e le grida penetranti delle donne si fondevano col baccano delle canzoni. Succedere, disse lui piano, così piano che persino lei fece fatica a distinguere le sue parole. Gli occhi di lei improvvisamente si riempirono di lacrime. Cosa mai dovevo fare? Ero rimasta sola. La farmacia, poi il dottore, poi i funerali di tutti e tre. Ho venduto tutto quello che avevo. Ho pagato i debiti e sono rimasta a mani vuote. Sono andata a servizio dal signore Cachot, ricordi? Quello zoppo. Avevo appena compiuto 15 anni, ne avevo solo 14 quando eri partito. Feci peccato con lui. Siamo scemi, sai, donna. Poi sono andata a fare la bambinaia da un notaio, eppure con lui ho fatto peccato. Da principio mi prese come mantenuta, vivevo in un appartamento, ma non per molto. Mi piantò. Passai 3 giorni senza mangiare. Nessuno mi pigliava più e sono entrata qua dentro, come le altre. Parlava e le lacrime le scorrevano a rivoli dagli occhi lungo il naso, bagnavano le guance e le colavano in bocca. «Che cosa abbiamo fatto?» proferì lui. «Pensavo che pure tu fossi morto», disse lei tra le lacrime. «Mica l'ho voluto io», sussurrò. «Come hai potuto non riconoscermi?» disse anch'egli in un sussurro. «Non so, non ne ho colpa», continuò lei e si mise a piangere ancor più forte. «Come facevo a riconoscerti io? Non eri così quando ero partito. Ma tu, come mai non mi hai riconosciuto?» Lei fece un gesto disperato con la mano. «Ah, ne vedo talmente tanti di uomini io che per me ormai hanno tutte la stessa faccia». Il cuore di lui si strinse con tale dolore e violenza che gli venne voglia di gridare e singhiozzare come un ragazzino quando lo picchiano. Si piazzò dall'andonazzate e, afferrata con le sue grosse zampe da marinaio la testa di lei, la fissò in volto. A poco riconobbe finalmente in lei la ragazzina piccola, esile e piena d'allegria che aveva lasciato a casa assieme a coloro a cui lei aveva chiuso gli occhi. «Sì, sei Françoise, sorella», proferì. E all'improvviso i singhiozzi, grevi singhiozzi di uomo, simili ai singulti d'un ubriaco, gli si levarono in gola, lasciò ricadere la testa di lei, colpì il tavolo in modo che i bicchieri si rovesciarono e volarono in 1000 pezzi e si mise a gridare con voce folle. I compagni si voltarono verso di lui e lo fissarono. «Guarda come sei gonfiato», disse uno. «E basta gridare, ehi», disse un altro. «Ehi, Duclos, cos'hai da urlare? Torniamo di sopra», disse un terzo, tirandosi le stompe per una manica e con l'altra abbracciando la sua amica che dava in scoppi di risa, tutta arrossata e che aveva lucenti occhi neri e un corpetto di seta rosa scollato. Duclos improvvisamente tacque e, trattenendo il respiro, fissò i compagni. Poi, con la strana e decisa espressione con la quale di solito si buttava nella mischia, barcollò fino al marinaio che abbracciava la ragazza e diede un colpo con la mano tra loro separandoli. «Via! Non vedi che è tua sorella? Tutte loro sono sorelle di qualcuno. Anche questa è la sorella Françoise». Si mise a gridare, scosso da singhiozzi che assomigliavano a una risata. E cominciò a barcollare, sollevò le braccia e piombò con la faccia sul pavimento e si mise a rotolare sul pavimento, picchiandoci contro mani e piedi, rantolando come un moribondo. «Bisogna metterlo a letto», disse uno dei compagni, «perché non lo sbattano fuori». E, sollevato Celestin, lo trascinarono di sopra, nella stanza di Françoise, e lo deposero nel letto di lei. Arturo Cirillo ha letto Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carbolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.